Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buon anno! Che impressione, siamo nel 2016, che pizza! Buon anno, cioè questa è la nostra prima domenica del 2016. Esatto. Chiedimi se sono felice oggi. Che barba, che barba, che noia, che noia! E inauguriamo barba, questo barba, nuovo che anno che con... Noia, che barba, che barba! Ma sai perché? Perché passa troppo presto. Cosa? Gli anni, i minuti, la vita scorre così che ce la mangiamo, non, un disastro. Beh, sai, sai perché sono contento di chiedermi se sono felice? Perché è una trasmissione che riporta senso, cioè che riporta quei valori proprio perché la vita passa in fretta. A vivere l'attimo. Sì, dobbiamo porre attenzione a quelle cose che sono davvero significative, vero, non le solite minchiate. È vero, eccoci, che con questa... è cascata la corona, barone. No, sono d'accordo con te, è vero, bisogna imparare a vivere l'attimo come ci insegnano i nostri cani, che loro vivono l'attimo presente, no? Non pensano né al passato e tanto meno al futuro, quindi per esempio, ci insegnano tantissimo. Quante cose abbiamo imparato l'anno scorso con i nostri cani? Davvero tante. Tantissime. Il valore, la spiritualità, l'aiuto, l'empatia, la pet therapy. E tra l'altro adesso parlo proprio non giudicare, in questo, non giudicare, il non giudizio, dare la generosità, l'altruismo, perché tantissimo. Gli animali sono altruisti tra di loro, hanno tanto da insegnarci da questo punto di vista. Però a proposito di temi importanti da questo punto di vista, sai che i cani ci aiutano in molti modi. Sì, tantissimo. Uno di questi sono quando il cane fa da guida ad un cieco, ad un non vedente. Ah sì, certo. Allora, in linea noi abbiamo Giovanni Fossati, che è presidente nazionale del servizio cani guida per ciechi dei Lions italiani, che ci racconta che cosa succede proprio in quel reparto, cioè i cani che diventano cani da guida per ciechi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi tutti gli ascoltatori. Ciao Giovanni. Grazie. Buongiorno. Allora, insomma, che carica importante è questa qua di questo settore? Ma guarda, io non conto niente, che contano solo i nostri cani. Io non conto niente, io gestisco, faccio il mio dovere, ma il grande lavoro che fanno sono loro e dobbiamo essere riconoscenti. Quanti sono questi cani? Beh, noi praticamente ogni anno addestriamo, al centro viene addestrato 50 cani guida che vengono dati gratuitamente in tutta Italia. 50 cani guida. Ogni anno, pensate che siamo a 2035 cani addestrati da quando siamo partiti a fare questo lavoro. Senti, che una volta erano i pastori tedeschi, ora è sempre il pastore tedesco o c'è un altro tipo di cane che accompagna i non vedenti? Allora, oggi prevalentemente usiamo Labrador, Golden Retriever, eccetera, ma ancora pastori tedeschi femmina. Perché questo passaggio? C'è Perché una motivazione? C'è stato un passaggio dovuto al percentuale altissime di displasia dell'anca e purtroppo questo ci ha fatto dirottare un po' a livello di razza di cane. Vedi, queste sono le conseguenze della sbagliata manipolazione dell'uomo sulle razze. Sì, gli allevatori senza scrupoli si concentrano su, che so, magari gli aspetti estetici, oppure per forza vendere cani pastori tedeschi senza assicurarsi invece di fare selezione, e quindi mettono in mezzo ad allevare papà e mamma che hanno la displasia e ovviamente generano cucciolate piene di questi problemi. Senti, ma perché tu parlavi di femmine, più femmine che maschi? No, allora solo il pastore tedesco femmina. Ah, questo è interessante. Gli altri no, gli altri vanno bene anche femmine. Anche maschi. E come mai il pastore tedesco solo femmine? Perché per caratterialmente si è visto che era più logico, era più facile ottenere dei risultati con la femmina e non col maschio. Come sempre. Come se me l'hai servita su un piatto d'argento, Giovanni. Come sempre in natura, noi siamo un passo avanti. Beh, sai che i pastori tedeschi maschi sono competitivi con gli altri maschi, quindi è ovvio che possono avere, perché è giusto anche, questo bisogna dirlo, che il cane da guida per ciechi possa non soltanto essere facile da addestrare, ma che debba avere anche lui una vita dignitosa, bella, rispettosa, certo, della sua stessa qualità della vita. Allora tu, è ovvio che non puoi coinvolgere qualsiasi cane di qualsiasi razza, perché non ne va soltanto, non è soltanto una questione di addestramento, è anche la questione che poi questo cane nel fare questa vita deve stare bene. Esattamente, proprio così. Come funziona l'addestramento per un cane per ciechi? Allora, noi abbiamo un allevamento interno, anzi stiamo fra qualche mese verrà inaugurato il nuovo allevamento con 5 sale parte, nursery, eccetera. L'allevamento, come nascono qui a Limbiate, adesso non siamo ancora autonomi, ma con questa struttura nel giro di un anno o due dovremo essere autonomi, nascono i cuccioli, fino a 2 mesi e mezzo, 3, rimangono al centro, poi vengono date delle famiglie, le famiglie volontarie che si chiamano puppy walker. Queste famiglie che fanno un grosso lavoro di volontariato, che ovviamente sono sempre sotto il nostro protocollo, nostra cura, che li spese uh-huh. tutto, loro non spendono assolutamente niente, lo tengono fino a un anno di età. Uh-huh. Ecco, voi mi dite che il cane può soffrire, sì, ma diciamo che diventa un po' tutta una famiglia, no? Perché poi loro vengono spesso qui al centro, e i nostri istruttori vanno da loro, cioè diventa tutta una famiglia che tutto diventa molto più. Perché effettivamente l'obiezione comune, no, che adesso ci stava dicendo Giovanni, è: ma come mi fai crescere un cane in una famiglia per un anno, poi questo cane subisce un distacco? Mentre Giovanni ci sta dicendo, prima di questo distacco l'istruttore va a casa, loro vanno nel centro, così che il cane possa quindi si conoscono in quell'anno, si frequentano, esattamente, di quello viene un po' tutta una famiglia e tutto diventa molto più soft e molto più leggero. Il dramma è che se io fossi la famiglia che per un anno si deve tenere un cucciolo, poi non te lo ridò indietro. Quello è una, io non so come fanno. Scusami, al di là del cane che grazie a Dio cercate di non farlo soffrire, lo fate abituare a stare con gli istruttori, ma la famiglia che rimane orfana poi? No, la famiglia, devo dire questo, che ci sono anche dei bambini in queste famiglie assolutamente, però soprattutto i bambini, quando vedo la finalità e si sentono importanti per aver fatto questo, perché poi cosa succede? Anche la famiglia, soprattutto i bambini, vogliono conoscere il non vedente, diventa tutta una famiglia anche con loro, non è che si perdono per strada, e questo è il bello. Cioè vogliono conoscere la persona che adotterà in futuro il cane. Esattamente, questa è una bella cosa. È una bella cosa. Ecco, se voi venite al nostro centro, è un centro molto familiare, che tutto è molto bello, si fa tutto in modo tale da poter salvaguardare sia i cani, che io li chiamo gli umani a quattro zampe, no, non chiamo cani, perché abbiamo creato anche delle strutture con un habitat adatto a loro, abbiamo i nuovi canili che sono addirittura con riscaldamento pavimento proprio per creargli un habitat veramente degno di loro. E in modo tale che possano, ma tutto diventa proprio molto più bello perché tutto in famiglia. Tenete presente che noi abbiamo una struttura con 16 dipendenti, di conseguenza anche dei costi abbastanza importanti come di gestione. Ci credo. E siamo sostenuti per una parte dai Lions e dai Leo italiani, Leo sono i ragazzi dei Lions, e dalle persone che ci vogliono bene, che ce ne sono tante, che apprezzano il nostro impegno sociale per i non vedenti e veramente ci sono molto vicini e riusciamo ad andare avanti, perché noi diamo tutto incomodato gratuito, perché il non vedente assolutamente non spende niente, che sia povero, che sia ricco. No, certo, a parte che ci farà piacere, magari un giorno ti veniamo a trovare così vediamo il centro. Sicuramente, ci tengo moltissimo. Volentieri, ma l'altra cosa, dicevo, ma non sarebbe più facile per esempio il cucciolo darlo già direttamente alla famiglia del non vedente, in modo che il primo anno cresce lì, poi dopo rientra con voi, viene fatto addestrare e rientra in una famiglia che ha già conosciuto il primo anno di vita? Abbiamo fatto anche questo esperimento che devo dire la verità che non è che ci abbia dato molti risultati. Devo dire che comunque, infatti poi abbiamo abbandonato, e l'abbiamo provato in alcuni casi, ma non è andato a buon fine. Di conseguenza abbiamo preferito fare una cosa ovviamente che cosa che non andava a buon fine? Il fatto che il cane, per poter essere ben socializzato il primo anno, ha bisogno di vivere tutta una serie di esperienze, bisogna vivere in famiglia, bisogna vivere con gli altri animali, bisogna di vivere con i bambini, bisogna di vivere, cioè, ci sono delle situazioni che ovviamente potevano essere prese in considerazione, ma alcune no, proprio perché mancavano questi presupposti. Perché poi quando il cane va dal non vedente deve essere ben socializzato con tutta una serie di stimoli, esperienze, via dicendo, in modo che non abbia problemi, non abbia paure, non abbia, e quindi è necessario che nel primo anno di vita faccia una serie di esperienze che magari un non vedente in quel momento non riesce a garantirgli, perché magari lavora, perché magari... Infatti Angelo è proprio ragione, ma infatti noi quello che intendiamo proprio dire questo, dico sempre anch'io, che l'addestramento inizia dalle famiglie, perché è da lì che si forma il carattere del cane, da lì che... Però la parte proprio che tecnicamente si chiamerebbe educativa, cioè che tira fuori il carattere del cane, le sue potenzialità, la sua socializzazione, e da quell'anno dipende poi tutta la felicità del cane. Senti, ma le famiglie quindi sono sempre le stesse, quelle che tengono i cuccioli alla fine? Noi attualmente abbiamo circa più di 30 famiglie che abbiamo, come consegnano un cuccio se ne prendono anche un altro, alcuni no perché vabbè, ci rinunciano, però devo dire che sono delle famiglie che sono ogni tanto ne abbiamo sempre nuove che, o perché sentono di queste necessità eccetera, e dato che si fanno anche delle riunioni qui con tutte le famiglie qui rinviate al centro, e anche lì viene fuori una bella familiarità che poi è un incentivo anche che per chi viene per la prima volta, in base alle esperienze che sentono dalle famiglie ormai che hanno avuto già altre possibilità di poter avere altri cani, e si forma proprio veramente è da provare. Io poi che sono un emotivo e queste cose me le sento, ma le sento col cuore, perché veramente si fanno un lavoro straordinario proprio tutti insieme. Cioè noi, per quanto riguarda quello che sono le gestioni, gli addestratori fanno il loro lavoro, fanno bene, oltre che vivere con lo stipendio che ovviamente mantengono le famiglie, certo, con il loro lavoro, però mettono anche il cuore, anche perché insomma, come dicevo prima, i cani sono i loro padroni qua. A Rimbiate comandano i cani, anzi io ripeto sempre, voglio ripetere un'altra volta, li chiamo gli umani, gli angeli a quattro zampe. Bravo. Perché fanno un lavoro straordinario. Bravo, e quando bravo. Li vedo in giro, Rosita e Angelo, che li vedo magari uscire, ti dico, vi dico la verità, che lo sento, vedo che mi sgorgono le lacrime dagli occhi, così anche senza, ma ci credo. Perché vuol dire che vedere questi angeli a quattro zampe che accompagnano queste persone nella loro vita e che le danno sicurezza, perché attenzione che il cane non vedente le dà la vita, oltre ai due occhi che non ha più, le dà la vita, perché le dà la vita, perché dedica la sua vita, esattamente, le dà la vita, perché poi entrano in simbiosi, è una cosa veramente commovente vederli, e poi le dà la sicurezza, perché la sicurezza, il non vedente prende il maniglione rosso, che vuol dire che è il cane che fa da guida, e lui si sente orgoglioso di farlo, poi si sente utile a qualcuno che ha bisogno di lui. Giovanni, ti dobbiamo bloccare, ci rivediamo tra poco nel secondo blocco, dopo le informazioni sul traffico. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E questa prima domenica del 2016, adesso stavamo parlando con Giovanni Fossati, che è responsabile nazionale dell'addestramento cani per ciechi Lions. Giovanni, ci sei ancora? Ci sono. Stavi dicendo giustamente tu che poi il momento in cui vedi questi cani che tu, con i quali tu hai convissuto per tanto tempo, poi andare nella famiglia dove si prenderà cura appunto di un non vedente, comunque è un momento commovente. Ma devo dire che un momento commovente quando, perché il non vedente, dunque, innanzitutto all'anno di età inizia l'addestramento, quando arrivano dalle famiglie, dove c'è una diagnostica completa, perché il cane deve essere completamente sano. Uh-huh. Inizia l'addestramento i primi mesi qui all'interno, dove abbiamo dei campi ostacoli, dove si vedono tutti quali che generalmente si può trovare in città, tombini aperti, strade chiuse eccetera. Uh-huh. E i primi 2-3 mesi qui all'interno del centro, poi tutte le mattine i nostri addestratori con le loro macchine, con le macchine del centro, vanno in città, vengono anche a Milano oppure in qualche paese, si vedono in giro anche per il centro, dove devono insegnare a fare tutto quello che facciamo noi, cioè devono evitare gli ostacoli, se c'è una strada chiusa devono trovare un'alternativa, attraversare una strada, andare sul tram, andare sul eccetera eccetera, andare in metropolitana, cioè deve fare praticamente di un cittadino. Esattamente, un cittadino, in modo che non vedente, quando prende il maniglione, che è il cane che guida, lui deve lasciarsi andare, il cane lo porta dove appunto è il suo obiettivo. Ma io mi sono sempre domandata, come fa il cane a conoscere l'itinerario di un non vedente, perché ogni non vedente abita in una zona diversa dall'altra? Sì, allora normalmente i cani sanno gestire un po' tutto quello che è il percorso di ogni città, di ogni paese eccetera, però poi il cane le prime volte è talmente intelligente che gli fai fare una volta un percorso e si ricorda subito come deve fare. Di conseguenza questo è un discorso che... Il vedente ha un certo senso di orientamento, no? Il cane lo aiuta laddove c'è il marciapiede, l'ostacolo, la persona, il palo, il semaforo. Ma come fa a sapere dove deve andare? Cioè, no, dove deve andare lo sa anche il non vedente. Anche il non vedente, certo. Il non vedente ha una meta in mente, più o meno sa orientarsi, però lui magari non vede il marciapiede, il palo, la persona, il semaforo. E il cane lo aiuta in questo. Esattamente. Poi, ecco, voglio dire anche un'altra cosa, avendo lavorato io stesso, perché poi devi sapere che alcune delle persone che sono state da voi Lions poi mi hanno chiamato per raffinare delle cose, non delle cose che hanno a che vedere con la conduzione del cane guida, però per esempio voglio giocare, mi insegni come poter fare un determinato tipo di gioco, no? Devo dire che il legame che si crea non è importante soltanto per l'utilità, cioè il mio cane mi aiuta ad andare in giro in città, in realtà è un grosso sostegno, così come accade normalmente, no, per le persone, però lo è ancora di più per i non vedenti, è un grosso sostegno proprio morale. Cioè il legame col cane alza la qualità della vita del cieco, perché è di nuovo un compagno che non giudica, che ti accetta incondizionatamente così come sei, ciò che invece è molto difficile che accada, no, per un non vedente. E quindi insomma abbiamo dei vantaggi anche psicologici, non soltanto dal punto di vista pratico e utile. Sì, perché poi c'è anche un altro passo, che quando il cane è pronto, addestrato, il non vedente, innanzitutto glielo diamo alla sua abitazione dove abita per una quindicina di giorni per socializzare, poi rientra qui nel nostro centro dove abbiamo 4 mini appartamenti, dove vengono con un accompagnatore e rimangono qui da noi per una settimana e 10 giorni, in modo che l'addestratore che ha addestrato il cane a lui destinato le dia tutte queste informazioni e queste pratiche che deve fare per avere appunto esattamente. Quindi anche il non vedente viene da voi a fare un minimo di tirocinio. Rimangono qui una settimana sempre gestito da noi, loro non spendono assolutamente niente, e in modo tale che è lì il momento che dicevo, ritornando a quello che dicevo prima, è il momento poi quando escono col loro cane, che allora veramente ci vengono le lacrime agli occhi, perché vuol dire che una persona è felice perché è uscita con la loro guida, con la sua vita che sicuramente migliora, e poi vuol dire che abbiamo fatto qualcosa per gli altri, che è quello che ci apprezza molto di più. Bene, grazie Giovanni, ci ha fatto un sacco piacere fare una chiacchierata con te, appena riusciremo con Angelo vorremmo venire a trovarti. Ben volentieri, invito anche tutti gli ascoltatori che il centro degli inviati è aperto, comunque il nostro sito è www.caneguidalions.it. Grazie. Che trovate tutte le nostre informazioni, e complimenti sia a Rosita che a Angelo per la conduzione di questa trasmissione, che è molto bella. Grazie Giovanni, grazie mille. Un abbraccio e buon Natale, buon anno anche a te, ciao. Quindi ben accette anche queste le donazioni che la gente possa fare ai Lions per questa cosa. Infatti, a me piacerebbe andare a vedere, mi sono sempre stupita, sempre fatto tenerezza. No, poi tra l'altro ricordiamo, Giovanni ha invitato anche tutti gli ascoltatori, quindi è una cosa libera, si può andare a dare un'occhiata. Vedi chi è sicuro di fare le cose fatte bene, bravissime. Senza coercizioni, in modo gentile. Abbiamo parlato qualche settimana fa, no, che c'erano questa trasmissione di Report dove i giornalisti volevano andare a vedere come tenevano i cani assaggiatori, e invece tutti era qua. Tutto chiuso, ma alla fine hai visto, no, lo stabilimento si è bruciato, no, adesso non le fosse, cioè tu, nessuno che li ha fatti entrare, i cani dormono, non abbiamo ricevuto la telefonata, insomma chi più ne ha più ne metta. Senti, vogliamo parlare dei 7 modi di insegnare a un cane a non saltare addosso, a proposito di addestramento, no? Perché poi siccome in questo periodo di feste, no, tra poco ci sarà l'Epifania, spesso che noi tutte le feste si porta via, esatto, sì, però poi la festa della vita rimane ancora, no? Infatti, sì, chiedimi, certo, se sono felice. Però a parte questo, dicevamo, abbiamo ospiti a casa, e spesso quando ci sono gli ospiti a casa i cani saltano addosso, esatto. E allora per chiunque i miei abbia... poco male, perché pesano 2 kg e 3 kg, quindi saltano addosso, arrivano manca un ginocchio. Tutto al più il chihuahua morde i polpacci. No, perché devi sapere che questo articolo a cui facciamo riferimento, ricordo, si trova sul sito angelovaira.it se qualcuno volesse approfondire, sorge da un intervento che avevo fatto per Magalli quando lavoravo con Magali in TV, no? Perché c'era una cagnolina che si chiamava cagnolona si chiamava Ariel, che saltava addosso, metteva le zampe sul tavolo, eccetera, ci abbiamo lavorato. Era un pochettino irruente. Allora, niente, praticamente lavorandoci Angelo ha scoperto che, non è che ha scoperto, mi sta insegnando, come suggerisce a tutti quanti, che quando, siccome io ho avuto un alano e anche lui era un alano di tot chili, ma si comportava praticamente come un barboncino, e aveva preso il vizio perché io gli avevo insegnato così, quando entravano gli amici badabom, io dicevo state ben saldati a terra, perché lui metteva le zampe sulle spalle a chiunque entrava in casa per fargli le feste, in realtà. capite che più lo si scansa un cane, questo l'ho scoperto con Angelo, e più invece di insegnargli a non saltarti addosso lo si incita a far questo. Assolutamente sì, perché quando tu hai un cane che ti viene addosso e ti scodinzola, molti degli ospiti sono contenti di questa cosa, quindi certo, dico che bello, no? Il cane quindi dice è una figata, faccio bene, no? Quindi in realtà il cane capisce in quel momento che deve saltare addosso, gli è richiesto così, no? È una cosa buona che fa. In realtà poi ci sono degli altri ospiti che non hanno piacere, oppure lo stesso ospite che viene con un abito bello, soprattutto la donna, la tua amica che è venuta con i jeans l'altra volta scorsa, si è fatta saltare addosso e non gli fregava nulla, oggi ha invece le calze, i collant, e quindi impazzisce perché dice no, stammi giù, stai giù. Poi un errore classico in quel frangente è: io spingo il cane per dirgli di stare giù, in realtà in questo modo nella sua lingua gli dico giochiamo, e il cane salta addosso ancora di più. E invece quale sarebbe l'atteggiamento giusto nel momento in cui un cane ti inizia, ti accoglie con tanta come si dice, con tanta enfasi, euforia, allegria, picchiare e sottomettere? Beh, allora innanzitutto questo è il primo consiglio che possiamo dare: non ne vale la pena, cioè certo, picchiare e sottomettere non è per niente necessario, mai, in nessuna situazione. Così come vecchie tecniche di addestramento suggeriscono di dare un calcio, dare un pestone sulla zampa, una ginocchiata nel petto al cane, certo potrebbe anche funzionare, però dobbiamo prima capire che siamo stati noi incoerenti, no, nei messaggi che diamo ai cani. Il cane, tra l'altro, sai perché salta addosso? Perché vuole arrivare a leccare gli angoli della bocca. C'è un adattamento di un comportamento che lui fa quando è cucciolo, perché in questo modo la mamma rigurgita il cibo. Sai che con gli infanti, anche noi, le nostre mamme lo facevano una volta, no? Cioè si mastica un po' il cibo, lo si predigerisce, poi lo si rigurgita perché il cucciolo possa mangiare bene. E il cucciolo salta addosso perché vuole arrivare a leccare gli angoli della bocca, non più questa volta per ottenere il cibo perché non ne ha più bisogno, ma è un comportamento di deferenza. In barba a chi? Tra poco magari ce lo cavalliamo questa. In barba chi dice che saltare addosso è un comportamento di cane dominante. Ma in realtà non è proprio vero, anzi è il contrario: il cane salta addosso perché si sente un cucciolino, un subordinato. Vedi, quindi chi ha paura di essere dominato dal proprio cane c'ha dei problemi. Però nel frattempo adesso facciamo un attimo una breve pausa e parleremo in modo molto più approfondito di questo argomento. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 20. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. La genialità ribelle di uno che vedeva il calcio a modo suo, Eric Cantona. Una grande voce che continueremo a ascoltare a lungo, Juni Russo. L'uomo che ha insegnato a leggere a tutti quelli che non potevano farlo, Louis Braille. Tra cinema, gioco, donne e avventura, la vita di Omar Sharif. Una vita sfavillante e piena di misteri, Amanda Lear. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Stavamo parlando di questa cosa interessantissima che succede a tutti, di quando un cane per farti le feste ti salta addosso. Salta addosso. Interessante anche per capire la psicologia del cane, come entrare nella sua mente un po'. Allora, escluso il fatto che non vanno né picchiati, né dargli un calcio sulle zampe, nemmeno un pestone sulla zampa, nemmeno sottometterli una ginocchiata, perché non vale mai la pena usare metodi aggressivi o coercizione. Che altro, devo essere coerenti nel comunicare con loro. Tu avevi appena detto che il cane fa così in realtà perché si sente un cucciolone. Allora, anche se è un cane adulto. No, sì, ecco, questa è una semplificazione. Diciamo che il cane salta addosso tendenzialmente perché vuole arrivare a leccarti la faccia. Sì. È un segnale di adattamento che deriva da quando il cane vuole far rigurgitare la mamma. Quindi è un segnale di deferenza. Non perché è capobranco, dominante, quella era fondamentale. Ma al contrario, perché riconosce in te una figura di riferimento. Esatto. E pensa a te come cambiano le cose. Ora, un altro consiglio che possiamo dare è quello di ignorare il cane, oppure dare un segnale calmante. Che tradotto alcune. Sarebbe? Tradotto significa, per esempio, ti giri di schiena. Certo. Cioè, per molti cani, per evitare, per calmarli, no? Per avere questo effetto calmante, ti giri di schiena e ignori queste loro richieste di saltare addosso, perché se tu parli al cane, li accarezzi, li guardi in faccia, questi sono già rinforzi. Ma per tu ti giri di schiena un attimo, se tu sai che entri in casa e salta addosso, ti giri di schiena subito, quindi prima che lui salti. Prima ancora che lui salta addosso, ma se già lo sta facendo, va bene comunque, ti giri di schiena. Ora, il punto è che questo non funziona con tutti i cani, anzi, ci sono dei cani che ti artigliano praticamente e ti, come si dice, ti fanno un bello scrub con le loro unghie sulla schiena. Naturale, però. Quindi, eh? Naturale, tutto naturale. Esatto. Però, ecco, bisogna stare attenti anche a questa tecnica qua, perché a volte non funziona. Però è uno dei consigli. Invece con tanti cani, sì. Scansarsi, cos'è? Tipo, lui sta per saltare tu, hop, gli fai bravissimo. Lo scherzetto, quindi, che va a vuoto. Per chi, esatto, far andare le zampe del cane a vuoto sono un buon consiglio, perché il cane, già quando ti ha appoggiato la zampa su, ha avuto il suo rinforzo e la sua gratificazione. Certo. Se tu invece vai, fai in modo che le zampe vadano giù, vedrai che il cane è meno incentivato a saltare. La prossima volta dice col cacchio perché non mi posso appoggiare. No, magari lui ci ritenta, quindi tu ti scherzi la prima volta, lui lo rifà, poi lo rifà, però vede che questo non ha presa, cioè non serve, no? E quando ha le quattro zampe giù lo rinforzi, e questo è il punto 5. E rinforzo positivo che sarebbe? Rinforzo positivo è qualcosa che tu leghi al comportamento che vuoi che si ripeta. Allora, in questo caso, cosa vogliamo che si ripeta? Il fatto che il cane tenga giù le quattro zampe. E allora, quando il cane ha le quattro zampe giù, allora lì possiamo guardarlo, sorridergli, stando attenti a non far schizzare sul arousal, diciamo noi tecnici, cioè le sue emozioni. Perché se quando tu entri in casa e il cane è già in attesa, tu gli dici ciao bello piccolo, lo carichi, lo carichi come una molla. Invece quando entri in casa devi sorridergli e dirgli bravo, cioè questo è un tono di voce che più si accompagna alla calma, no? Quindi puoi dire al cane che sei contento, pur non innalzandone così tanto l'attivazione emozionale. E mettere il saltare addosso sotto segnale cosa significa? È una tecnica più raffinata, quindi io posso insegnare al cane a saltare addosso e poi glielo insegno a comando, tra col virgolette. Clicker. Anche senza clicker, no? Quindi insegna il cane a saltare addosso, il cane salta addosso perché io glielo chiedo e poi non glielo chiedo più. Ah, ecco, beh, però qui già ci vuole una cosa un po' più raffinata. La tecnica ninja? È combinare i punti 3, 4 e 5 di cui abbiamo parlato assieme, cioè girarsi e via dicendo. Però ecco, se uno volesse andare più a fondo, è importante che capisca che, per esempio, le capacità di autoregolazione emotiva nel cane sono fondamentali in questo caso, e anche il soddisfare i bisogni del cane, perché un cane che esce poco, inattivo, eccetera, salterà più addosso. Comunque, per chi volesse ricordare e memorizzare bene, 7 modi di insegnare ad un cane a non saltare addosso, lo trovate sul sito di angelovaira.it, Animalness. E adesso passiamo a un altro argomento, perché abbiamo un sacco di ascoltatori che sono gattofili, si dice? Si dice gattofili? Gattofili, esattamente. Gattofili. Che ci richiedono sempre, ma delle notizie sui gatti? Abbiamo Pino e Margherita Quartullo, con cui abbiamo passato un sacco di tempo mentre io facevo teatro, che hanno 4 gatti, tutti trovati, uno più bello dell'altro, davvero uno più bello dell'altro, che ogni tanto ci chiedevano consigli. Io proprio un disastro, però fra gatto e cane c'è molta differenza, al punto tale che si sembra che si dica che ci sono tipi da cani e tipi da gatti, cioè la differenza a volte sta proprio nella personalità. Ne parliamo con Laura Borromeo, che è la nostra esperta dei gatti. Ciao Laura. Ciao. Laura Borromeo è una comportamentalista del gatto. L'abbiamo già intervistata una volta e ci siamo ripromessi di rifarlo, perché di gatti, come ne capisce lei, non ne capisce nessuno. Esatto. è la mia come si chiama, esperta di gatti preferita. Abbiamo dato anche il tuo numero, il tuo riferimento, per esempio, a Pino Quartullo e sua moglie, che hanno 4 gatti trovatelli, ma uno più bello dell'altro, e ne combinano un po' in casa, quindi non sappiamo bene come rispondere. Allora, andando al sodo, c'è questa ricerca fatta alla Carroll University da una certa Denise Guastello, che ci indica che i possessori di cani e gatti, che questa parola possessore non ci piace come al solito, però chi ha con sé un compagno gatto, un compagno cane, ha anche un carattere differente che si manifesta in diverse cose. Sì, sia nella personalità che nello stile di vita proprio del padrone. Per esempio, dice che i proprietari di cani presentano il 15% in più di possibilità di essere estroversi e socievoli, mentre chi ha un gatto ha l'11% in più di probabilità di essere introverso. Ma ti risulta questa cosa, Laura? No, onestamente i miei clienti sono abbastanza estroversi anche se persone che vivono una vita sociale normale, però forse a livello di attività fisica forse c'è una differenza notevole. Cioè chi ha il cane tendenzialmente è più ginnico, è più sportivo, sta fuori, mentre chi ha il gatto un po' meno. Infatti tu devi sapere che Angelo, quando mi ha conosciuto, ha detto che i miei cani si comportavano come due gatti, non perché facessero loro bene, no? Però diciamo che il modo in cui Rosetta li tratta, essendo piccolini, capito, sono un po' come gatti. Sì, un po' pigri come me. Ma addirittura qui dice che le persone che hanno un gatto hanno il 17% delle possibilità in più di avere conseguito una laurea, cioè sono molto più intelligenti e preparati quelli coi gatti che quelli coi cani. Vedi, sarà è una studia interessante come cosa. Ma tra l'altro recentemente c'erano degli studi appunto sulle personalità introverse, timide, no? Sensibili. Ed effettivamente questo favorisce la riflessione, lo studio, l'interrogarsi, no? E quindi magari è per questo poi che c'è, adesso non so, è una mia ipotesi, però effettivamente questo è uno studio tra l'altro eseguito su 200.000 persone, quindi non è che sono 20 persone intervistate così. No, perfino Laura pensa che dicono che l'umorismo cambia, cioè l'umorismo di chi ha i cani preferisce più la comicità slapstick, cioè fondata su gag semplici che sfruttano il linguaggio del corpo, mentre invece i gatti sono un pochino più raffinati, un umorismo più sottile, giochi di parole. No, mi sembra che è verosimile, perché i gatti sono molto più critici nell'essere interpretati. Un cane è estroverso, ha un linguaggio anche corporeo molto visibile, mentre il gatto è molto sottile, ha un linguaggio così raffinato che per capirlo bisogna fermarsi, pensare e filosofeggiare con lui. Lui stesso filosofeggia, non ha questi comportamenti immediati come ha il cane. Bene. Ci pensa e poi agisce. Noi come umorismo, come comici, possiamo avere, che so, una persona che gioca con le parole, che come Vergassola, oppure i miei tre comici preferiti, che sono Aldo, Giovanni e Giacomo. Guarda un gattino! Ma non l'hai visto? Non ho fatto apposta. C'era un gattino! Ma non ho fatto apposta. Era lì sul ciglio della scuola! Ma lo sai come sono fatigati? All'ultimo momento, trac, ti attraverso e non fai tempo a schivarli. Ma basta che tu andavi dritto, non lo prendevi! Ho capito, ma io pensavo che lui attraversasse, lui deficiente, è rimasto fermo, è colpa mia. C'è un gatto anomalo, è colpa mia. Non ho fatto apposta, io amo gli animali. Questa gag di Aldo, Giovanni e Giacomo riferita ai gatti. Speriamo che non seguano l'esempio di Giovanni. No, ecco, persone, sì, terribile. Senti Laura, invece per quanto riguarda più che i tipi di abitazione, le persone che adottano un cane o un gatto, tu pensi che ti ritrovi? Perché dice che i genitori con bambini piccoli tendenzialmente adottano cani, mentre i single o le persone più anziane, più adulte, i gatti. Tendono ad adottare gatti. Sì, questo sì di sicuro, anche se bisogna un attimo sfatare una idea che avere un gatto sia più facile di tenere un cane. Certo. E questo veramente vorrei un attimo spiegarlo, perché se una persona porta fuori il cane 3 o 4 volte al giorno, perché chiaramente se si dicesse a qualcuno che ha un cane di tenerlo chiuso in casa tutta la vita penserebbe che siamo matti, e però ci si chiede come mai tutti pensano che tenere un gatto chiuso in casa tutta la vita sia una cosa normale. Infatti, ma non lo è. Perciò quello che bisogna fare è rendersi conto di questo e utilizzare lo stesso tempo che noi utilizzeremmo per portare fuori un cane a dedicarci al gatto, che invece tante volte è considerato un soprammobile, tenuto lì, non si ci giudica. Ma quindi tu vorresti dire che vanno portati fuori pure i gatti? No, non vorrei, non voglio, perché soprattutto per chi abita a Milano come noi sarebbe troppo pericoloso. Certo. E l'ideale sarebbe adottare un gatto se hai il giardino e lo puoi far uscire. Certo. Però quello che voglio dire è che è impegnativo anche avere un gatto, perché se torni a casa la sera, se dovresti portare fuori il cane, invece col gatto ci giochi in casa. Ah certo, però comunque devi socializzare, devi interagire. Quindi. Devi creargli qualcosa, cioè il gatto non soffre di ansia di separazione come il cane, però soffre di noia in maniera altrettanto grave. Ecco perché noi dobbiamo combattere la noia del gatto, questo è il suo vero problema. Vedi, ecco perché allora i gatti poi in casa marcano, fanno pipì fuori dalle cassette, fanno un macello, tipo non si soddisfano a casa sulle tende o fanno le unghie sui divani, perché hanno bisogno di fare qualcosa, tirano giù tutti gli oggetti, perché si cercano qualche cosa da fare. Perché tante volte la gente si dice, no? Quindi immagina da quello che sta emergendo la stessa cosa col gatto che col cane. Il mio cane fa così ed è un comportamento indesiderato, e allora io che cosa devo fare per punirlo, correggerlo? In realtà qua non è che devi correggere il comportamento quando il comportamento si presenta, qua ti devi prendere cura dei bisogni. Ti devi fare delle domande tu. Di quel gatto in questo caso. Cioè i bisogni che vengono frustrati si trasformano poi in comportamenti problematici. Esatto, sì. Quindi chi abita in città e non può far uscire il gatto perché c'ha in appartamento, tornato a casa dal lavoro, si dedica al gatto, gli dedica del tempo, arricchisce anche a livello ambientale. Certo, perciò i tiragraffi, l'albero per gatti, i vari giochi, delle cannette da pesca per farlo cacciare, cioè devo un attimo mimare la tipologia di gatto che avrebbe fuori casa, perciò il potersi arrampicare, il potersi stare in alto, tante volte la maggior parte dei gatti salgono sui mobili della cucina, quasi tutti i miei clienti hanno, e questo ci dice qualcosa. Io dico sempre, i gatti ci parlano, cerchiamo di ascoltarli, cioè un gatto che sta sul mobile in alto ci sta dicendo che per lui stare in alto è molto importante, certo. Oppure un gatto che si nasconde ci sta dicendo anche che magari avrebbe bisogno di sentirsi protetto, oppure un gatto che si fa le unghie ci sta dicendo che è inutile che ci arrabbiamo, ma abbiamo bisogno di comprare gli tiragraffi idonei, che possono essere quelli orizzontali, non è che ci arrabbiamo, se la fa sul divano, cioè dobbiamo comprare tiragraffi. Anche il fatto per esempio di fare i bisogni fuori dalla sua cassettina è una risposta a una sorta di abbandono, nel senso che viene lasciato lì in casa e basta? Ecco, allora sì, potrebbe essere, rispetto all'abbandono è il fatto che noi siamo fuori tutto il giorno di casa, certo. E abbiamo per esempio una sola cassettina e per esempio non la teniamo abbastanza pulita, e la maggior parte delle volte è proprio il bisogno di dire scusa puliscimi la cassettina, perché sennò io mi trovo un posto pulito dove farla. No, in realtà in questo caso era successo così, guarda Laura, che questi miei amici hanno 4 gatti che dormivano in una stanza, ci sono stati degli ospiti in casa che hanno dormito nella stanza dove c'erano i gatti, e i gatti sono stati traslocati fuori, dormivano in camera con loro, quindi non è che erano relegati a un'altra stanza. Il mattino dopo hanno trovato, appena si sono alzati gli ospiti dal letto, hanno trovato tutti i letti marcati, il letto dove dormiva l'ospite, il letto loro, il letto, cioè era abbastanza... Così potrebbe essere uno spavento, ma immaginate voi, all'improvviso, senza che nessuno ve lo dica, vi trovate 2 strani in casa vostra, certo. Imposti, dormono nella stanza dove tu sei sempre stato, dove hai sempre fatto le tue cose e dove magari ti senti spaventato perché non puoi più entrare. Cioè noi pretendiamo dagli animali delle cose che da noi stessi non pretenderemmo, cioè 2 strani in casa a me terrorizzerebbero, cioè io non so, sarei nascosta, non farei più la pipì, oppure la farei fuori, oppure non mangerei, perché nessuno li avvisa i gatti, nessuno gli dice guarda sono amici, sono ospiti e ci divertiamo con loro. E questo potrebbe veramente scombussolare il territorio di un animale. Bisogna chiedere al gatto se è felice. È proprio una questione di prospettiva, cioè per quello che per noi è scontato, cioè il fatto che tanto sono 2 amici, sono degli amici, no, per il gatto non li vive come amici. Allora Laura, noi dobbiamo farti qualche altra domanda, però dobbiamo dare un attimo le informazioni sul traffico, la pubblicità, non mi ricordo, ci vediamo tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ma oggi è il mondo dalla prospettiva del gatto. Del gatto. Siamo con Laura Borromeo, la nostra amata esperta di comportamento dei gatti. E stiamo partendo da questa ricerca fatta alla Cornell University su un campione di 200.000 persone che rileva delle differenze tra chi ama i gatti e chi ama i cani. Abbiamo detto che l'abitazione è importante per il gatto, che non è vero che il gatto comporta meno, come si dice, impegno rispetto al cane, che quando uno impegno diverso. Soprattutto quando il gatto vive in città e vive tutta la vita in appartamento, uno quando torna al lavoro a casa, come si farebbe col cane che tu lo porti fuori, ti devi dedicare al gatto, certo. Lo fai giocare come no? un figlio, come si fa come un figlio rispettando quando... però la sua diversità, che è un gatto, certo. Però ti devi dedicare. Ognuno nelle proprie diversità, ma ci si deve dedicare comunque a qualunque essere vivente, anche se sia un pappagallo, certo. Suppongo. Allora l'ultimo dato che ci dà in questo articolo pubblicato su LifeGate, questa ricerca, è che c'è anche una differenza sulla salute, cioè pare che chi possiede un cane sembra ringiovanire tra virgolette di 10 anni grazie all'attività fisica quotidiana che l'animale lo obbliga a fare. Grazie cani. Esatto, cosa grazie qua. Mille. E poi invece i gatti pare che siano particolarmente utili a chi soffre di reumatismi. Non so, questa cosa qua è la prima volta che la sento, non so Laura se tu hai qualcosa da commentare. Sì, allora sui reumatismi non lo sapevo, sui problemi cardiaci sì, addirittura sia in Svizzera che in America chi ha problemi cardiaci viene suggerito di adottare un gatto, perché okay. il gatto ti obbliga a stare seduto perché lui ama stare in braccio, okay. cioè tu devi stare fermo, ma soprattutto il movimento del coccolarlo e il doverlo farlo sentire tranquillo fa sì che il battito cardiaco rallenti. Si ritmi sul battito cardiaco del gatto, sì, perciò per i cardiopatici fa veramente grandioso. Molto bene. Senti Laura, adesso siamo dei primi del 2016 praticamente, no? E io immagino quelle persone che o hanno avuto in regalo un gatto, speriamo che sia stata fatta un'adozione consapevole, infatti. E poi chi magari dice nel 2016 io vorrei, finalmente è arrivato credo il momento nella mia vita di avere un gatto. Puoi darci dei suggerimenti per chi sta facendo questo pensiero in questo momento, cioè chi ha voglia di adottare un gatto, che cosa dovrebbe fare per fare un'adozione consapevole fatta bene? Allora, rendersi conto, cioè farsi un po' di domande su se si può permettere di tenerlo, cioè comunque è un animale che avrà anche dei costi veterinari, di gestione, anche alimentare, perché l'alimentazione è importante, ma soprattutto, ricollegandoci al discorso di prima, se hai il tempo da dedicare al gatto e soprattutto di arricchire la casa, cioè come chi avrà un bambino si fa la stanzetta per il bambino, chi avrà un gatto deve farsi il corredino per il gatto, il che vuol dire un bell'albero sul quale lui può salire senza appunto poi rovinare i mobili, questi si possono comprare sia nei negozi ma anche su internet a dei prezzi veramente ragionevoli, e soprattutto dei tiragraffi che possono essere orizzontali e verticali, tanti giochini tipo le cannette da pesca che mimano la caccia, la predazione che il gatto ama così tanto, e tanti giochini che possono essere anche giochini casalinghi, perché non stiamo parlando solo di comprare cose, i giochi li si può fare anche in casa, certo. Il filo con attaccato una pallina, una nocciolina, cioè tante cose si possono fare in casa, però ricordarsi che il gatto deve giocare tutti i giorni, esattamente come il cane esce tutti i giorni, mentre noi magari lo facciamo giocare una volta alla settimana e poi pretendiamo che il gatto sia soddisfatto solo di ricevere magari le coccole. Anche noi, se qualcuno ci tenesse solo per essere toccati e coccolati, alla fine ci stuferemmo tantissimo, neanche un bambino amerebbe essere solo coccolato. Tutto il bambino deve fare le sue cose, il gatto deve fare le sue di cose, che sono la predazione principalmente. Uh-huh. E poi veramente rendersi conto che adottare un animale è un essere vivente, bisogna essere responsabili della sua vita, farsi sì. anche le domande se vado in vacanza dove lo posso mettere, se ama viaggiare piuttosto che non, perché magari qualcuno per questo sì. Questo appunto sul viaggiare è importante dire che bisogna abituare il micetto sin da subito, e sì. anche qui scattare l'idea che il gatto si abitua alla casa. Il gatto si abitua alla casa perché noi ce lo abbandoniamo, ma se noi lo abituiamo fin da piccolissimo a cambiare ambiente, a andare in territori diversi, esplorare territori diversi, si abituerà a questo tipo di vita e ovviamente potrà venire con noi per sempre. Bella questa cosa. Certo, infatti. Ma come tutte le cose bisogna... Il trasportino, alle macchine, alla macchina, cioè tutte queste fanno parte dell'abituazione. Ci sono, cioè, in maniera molto più precisa, se posso dirlo, sul mio sito ci sono, che è lauraborromeo.it, ci sono dei filmati, i primi 6 video sono proprio su che cosa bisogna fare per abituare il gattino a tutta questa serie di cose, esattamente come deve essere abituato a incontrare persone strane, perché sennò andrà a finire che quando sente suonare il campanello si rifugia sotto il letto e sta nascosto tutto bellissimo. Il giorno. Senti, allora io solo un'ultima cosa ti volevo chiedere, ma perché a volte, raramente, grazie a Dio, mi capita di vedere persone che mettono il collare, il guinzaglio al cane, al gatto, lo portano giù a passeggio come il cane, anche no. No. anche no, di sicuro, cioè chi ha il giardino di sicuro se è in sicurezza a farlo uscire, ma noi che viviamo a Milano, per l'amor di Dio, ci manca di vedere, no, è pericolosissimo, perché il gatto si può spaventare dall'apparire di un cane, da un botto, e schizzerebbe via e sarebbe poi introvabile. Bene. No, è troppo pericoloso. Cioè, allora, torniamo a ricordare il sito di Laura, che è www.lauraborromeo.it, dove ci sono 5-6 video interessanti interessanti sui gatti e sui cuccioli. Grazie. D'accordo. Laura. Laura, sei stata gentilissima. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao Laura, grazie. Pronto? Pronto? Pronto. Federico. Ciao. Buongiorno. Allora, Federico Marchetti, Rosita, Rosita le ho raccontato in fretta di questa vostra iniziativa. Allora, ricapitoliamo e tu ci aiuti anche a capire cosa sta succedendo. Stavamo parlando poco fa di gatti con Laura Borromeo, che è una comportamentalista. Allora, tu devi sapere, Rosita, che dei musicisti si sono detti: ma perché non facciamo dei concerti dove raccogliamo fondi e destiniamo questi fondi al gattile e al canile? Bravi. E uno di questi musicisti mi sembra che sia tu, no, Federico? Esatto, sì, sono uno dei tanti. Uno dei tanti. Com'è che vi è venuta in mente questa iniziativa? Questa è la domanda più difficile, nel senso, ci è venuto da farlo, ecco, ci siamo sentiti di farlo, perché comunque siamo tutti artisti e non solo musicisti, quindi ci sono anche grafici, illustratori, fotografi, scrittori, tutti più o meno, siamo tutti coetanei, amici da tanti anni, che personalmente siamo tutti artisticamente attivi con i nostri poi progetti individuali o di gruppi, che però è da 2 anni che collaboriamo per organizzare degli eventi o dei concerti qui nella zona o nella provincia novarese. Avete cani o gatti? Avete adottato? Beh, ovvio, sì. Beh, certo. Diciamo che sì, ecco, abbiamo una certa sensibilità, nel senso che comunque amiamo i nostri amici a quattro zampe, e come prima iniziativa a scopo benefico volevamo comunque cominciare con una cosa che fosse raggiungibile, tangibile, quindi che fosse comunque confinata diciamo alla nostra città, alla nostra provincia, quindi diciamo che il discorso vale per tutti gli abitanti delle nostre zone. Che è Novara, mi sembra? Esatto. Novara. Quanti musicisti siete? Siamo una quarantina. Siamo riusciti a fare una canzone e poi pian pianino questa canzone ha cominciato ad avere l'interesse un po' di tutti, che cominciavano a dire voglio cantare un pezzo, voglio fare questo, voglio fare così, cosa. Senti, ma da quanto tempo è online la canzone? Uno come fa per acquistarla in modo da... Perché credo di avere, se non ho capito male, i soldi dell'acquisto di questa canzone vanno per questo canile e questo gattile, giusto? Allora, sì, quasi giusto, nel senso, in realtà la canzone è un regalo, fa parte dei gadget. Ah, ok. Quindi noi, a seconda della donazione che viene fatta, che parte da 5 euro... poi c'è 10, 20, 30, 50, addirittura 500, noi veniamo a farti il concerto a casa volendo, o nel locale, quindi è una cosa che noi abbiamo fatto un taglio per i locali della zona che ci potrebbero avere tutti insieme a fare una bella serata, comprando, insomma, facendo la donazione si compra tot cibo per i nostri amici cani e i nostri amici gatti, e in più c'è o la canzone in formato digitale, che quindi ti viene subito spedito, oppure ti viene spedita a casa il simpaticissimo CD. Benissimo. Con la canzone. Esatto. Ora abbiamo, quindi mi sembra di aver capito leggendo il comunicato stampa, che con 10.000 euro voi riuscite a sfamare tutti i cani e tutti i gatti per un anno intero. Quanto siete riusciti a raccogliere fino adesso? Allora, contando che la cosa sarà sicuramente poi veicolata dal passaparola e anche dall'aiuto che ci darete voi e tanti altri, siamo quasi arrivati ai 2.000 euro. Quindi il tetto iniziale era 1.000 euro, che abbiamo raggiunto rapidamente, abbastanza in fretta. La sfida è appunto arrivare a 10.000. Ma certo. Bene, allora riassumi un attimo velocemente per aiutarvi a arrivare a 10.000 il prima possibile. Però c'è un sito dove bisogna allora andare. Esatto, bisogna andare, o si cerca Insieme a Natale, per esempio su Facebook. Insieme a Natale, su Facebook. Esatto, esatto. E, oppure sul sito www.effela.com, che è questa piattaforma di crowdfunding. No, scusami, fai lo spelling che non si è capito bene, www. E P di Padova, P di Padova, E di Empoli, L di Livorno e A di Ancona. Effela. Effela. Esatto. Effela.com. Esatto, e si basta ricercare insomma, nella barra della ricerca del sito Insieme a Natale, e viene praticamente benissimo fuori la pagina con tutta la spiegazione del progetto, di chi siamo noi, che ci denominiamo Collettivo Artistico Meraviglia Big Band. E poi, bravi, insomma, bravi. Questa è la prima iniziativa che abbiamo messo su. E allora, Federico, diciamo, noi dobbiamo salutarti, che ci fanno segno della regia che dobbiamo chiudere. Certo. Grazie per questa meraviglia che siete e tutti quanti voi. Magari faremo sentire la canzone. Felice di aiutarvi. Magari la canzone facciamo. È venuta pure bene, tra l'altro. Beh, mandatecela, certo, che la mandiamo, sì, la facciamo ascoltare. La senti, grazie mille. Grazie mille a voi. Ciao Federico. Ciao, buona ciao. Giornata. Ciao. Allora, volevo ricordare, chi volesse scriverci, chiedimi se sono felice, @radio24.it, e continuate a seguire queste domeniche di Radio 24 perché sono interessantissime. Buon anno da Angelo Vaira e Rosetta Celentano. Ciao.